Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Era preoccupata perché la fine dell'anno scolastico era vicina e la figlia di studiare proprio non ne aveva voglia. Le ore preferiva passarle sui social network. Per questo Patrizia Crivellaro, infermiera, aveva impedito alla ragazza 17 anni di usare telefonino e PC. Un divieto che avrebbe scatenato nella ragazza una rabbia crescente, tanto da portarla a uccidere la madre con un colpo di pistola alla testa. La svolta sull'omicidio consumatosi il 25 maggio scorso a Melito Portosalvo, Reggio Calabria, è arrivata dopo lunghe indagini. Da mesi gli inquirenti lavoravano alla ricerca di elementi utili per ricostruire quella morte in apparenza inspiegabile. L'ipotesi del suicidio a cui si era pensato... Ora, non è una novità che i figli uccidano i genitori per futili motivi. Motivi di eredità, motivi di liti, di antichi dissapori, ma nel caso specifico ragazzi giovani che uccidono i genitori per avere in cambio un controvalore in economico o in libertà sono fatti abbastanza frequenti, ma vi ricordo quelli che hanno costellato la memoria pubblica maggiormente. Nel 1991 Pietro Maso a Montecchia di Crosara uccide i genitori per un po' di soldi, vuole andare in discoteca, essere libero, comprarsi bei vestiti, li ammazza insieme a degli amici. Nel 2001 a Novi Ligure Erika e Omar massacrano madre, fratellino, fanno una strage in maniera efferrata, facendo una macelleria. Mi disse un agente che era entrato nel teatro del delitto, dice: in tanti anni non ho mai visto una macelleria di questo tipo. Una ragazza eterea, carina, un ragazzetto pulito, e anche lì per ottenere libertà. La vicenda di Reggio Calabria, della provincia di Reggio Calabria, è altrettanto un episodio di un adolescente che spara in testa alla madre, la giustizia, da una revolverata alla nuca. Poi per 5 mesi riesce a tenere botta e dire che non è stata lei, che è stata un'aggressione e via dicendo. Poi alla fine le prove sono schiaccianti e la incarcerano nel carcere minorile. Qual è il motivo questa volta? La madre le aveva tagliato i fili con le sue relazioni, le aveva sequestrato il PC e lo smartphone, non poteva andare più su WhatsApp, non poteva più digitare, non poteva andare su Facebook. Questo per lei era un delitto talmente grave e una privazione talmente grave della sua felicità che ha pensato di uccidere la madre. Questo è il punto di differenza. Oggi le connessioni per la maggior parte degli esseri umani sono relazioni. Togliere le connessione a una persona significa rinchiudere in una stanza. Come una volta ci dicevano, studia, se no ti chiudo a chiave in camera e non esci più. 800 24 00 24. A tra un istante. Stufe e caldaie Termo Rossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta. Melog. Cronache meridiane. Gli adolescenti italiani sono letteralmente stregati da Facebook, il social network più famoso. Impegna i ragazzi, pensate, 4 ore al giorno, cioè di più di quanto non siano impegnati a dialogare con i genitori. Quanto tempo passi su internet ogni giorno? Non lo so, tipo 3 ore. Io 4 ore più o meno. Un po' di ore, 3 ore? Sì, anche mentre studio. I ragazzi passano la maggior parte del loro tempo libero incollati a... Questo è il servizio passatista per eccellenza, in cui la gente si scandalizza. Era il 2010, sono passati 5 anni, che i giovani stanno su Facebook 3 ore del loro tempo. Sembra quasi di aver dimenticato che le loro mamme 3 ore stavano al telefono a dire: mi ami, quanto mi ami, ma mi ami ancora. C'era anche una pubblicità all'ora della SIP tipica, quando ci fu lo sdoppiamento degli apparecchi telefonici che potevano avere una spina, c'era la ragazza che stava in camera da letto e passava tempo col fidanzato al telefono. I giovani passano sempre molte ore nelle loro attività relazionali, è importante per loro parlare con gli amici, con i fidanzati, con le fidanzate, sempre un tempo enorme. Certo è che da quando esiste il social networking i giovani ci stanno molto più tempo. I giovani hanno una appendice emotiva sempre addosso, ma come ce l'hanno anche i vecchi. Io sono convinto che le madri siano altrettanto compulsive quanto lo sono le figlie oggi. È un po' difficile stabilire un'età in cui ci sia una prevalenza nel confidenza totale negli strumenti di interazione telematica tra esseri umani. Oggi non possiamo più considerarli degli oggetti, o nemmeno possiamo pensare che siano delle appendici diaboliche, come una volta lo erano quelle naturali, quindi intoccabili e intangibili. Sono strumenti che comunque allargano l'autostima e permettono di sentirsi al centro comunque di un network, di persone che ti vedono, ti pensano, ti segnalano, ti dicono mi piace, non mi piace, o direte che cosa abominevole. È sempre stato così. Le beghine che si scandalizzano di fronte alla madre che toglie il cellulare alla figlia e la figlia gli spara, sappiano che anche loro amavano passeggiare col vestito la domenica per il corso del loro paese e speravano che giovanotti le guardassero. Oggi è esattamente una moltiplicazione di quello stesso effetto gratificante. Tornando al punto del delitto di Reggio Calabria, sul quale non ho nulla da aggiungere se non qualcosa che dovranno definire le autorità preposte, dico che in effetti c'è uno slittamento comunque degli oggetti di piacevolezza che i genitori possono togliere ai figli quando vogliono dare a loro una disciplina. Ricordiamo negli anni passati quali erano: ti tolgo il motorino, ti tolgo la Vespina. Per me il sequestro del motorino era considerato una sorta di lutto nazionale. Quando prendevo un brutto voto, via, il motorino chiuso nel garage, la chiave con la catena, e io non potevo andare da nessuna parte. Dovevo prendere l'autobus, mi vergognavo tantissimo, mi mancava qualcosa, mi sentivo come un centauro azzoppato. Oppure, ancora prima, ti chiudo a chiave in camera. Oggi ci sarebbe una denuncia al telefono azzurro o qualcosa di simile per sequestro di persona. Ma una volta i genitori chiudevano i ragazzi in camera, o le ragazze in camera. Proibito uscire, non esci più per una settimana. E giù, mestizia, musi lunghi. Oggi nessuno ti proibisce più di uscire, nessuno ti dice più stai a casa. Oggi ti potrebbero dire ti tolgo il cellulare, cosa che trovo altrettanto stupida, perché togliere il cellulare non serve a niente. Non serve a niente togliere il computer, si toglie una cosa troppo importante, troppo fondamentale. Occorrebbe mettere su un altro piano anche le necessarie sanzioni, evidentemente. Ti vuoi guadagnare i soldi per il credito? Beh, allora studia e te ne compro uno migliore, uno che ti colleghi ancora meglio. Cercare di usare la negoziazione e il premio su altri piani, non quello semplicemente censore. Ma voi siete convinti che sia così importante oggi per un ragazzo avere gli strumenti di relazione? Io sì, penso sia fondamentale. Fondamentale come avere una buona salute, fondamentale come avere degli spazi per godersi la propria vita, come avere l'intimità della propria cameretta, come avere dei buoni amici o dei cattivi amici con cui dividere la giornata. 800240024. Buongiorno. Maurizio, buongiorno. Buongiorno. Vabbè, io niente, volevo intervenire per dire che mi ho scambiato qui, l'utile è diventato futile e il futile è diventato utile. Cioè, ma mi faccia la distinzione, cosa considera futile e cosa considera utile? In questo caso... Diciamo utile che possa essere di base l'amore rispetto per gli altri, poi soprattutto... Vabbè, queste sono teorie. Chiacchiere. Uno può vivere anche senza amore per gli altri, onestamente. Parliamo di cose concrete. Beh, vabbè, quello che sta mancando oggi nel rapporto umano, perché si chiude davanti a questi schermi, davanti a Facebook, tutta questa tecnologia che ci allontana. Ma io ricordo che due generazioni fa ancora i figli davano del lei ai genitori. Molti miei compagni di classe davano del lei ai genitori e tremavano di fronte al genitore. Non credo che fosse meglio, scusi, No, non era meglio, ma c'era uno scambio con i genitori. Comunque, sì, c'era, di calci in bocca, guida, se non venivano. Era una guida. Ma guardi, noi abbiamo noi abbiamo sempre l'idea che esista un passato mitologico in cui tutto andava meglio e viviamo nel mondo dell'abiezione. È semplicemente l'uomo che si evolve. Se sentissimo parlare i nostri figli quando avranno anche loro 70 anni, diranno quanto era bello il nostro mondo, che avevamo i nostri cellulari a disposizione, quanto è brutto oggi che magari, che ne so, ci sono gli scambi telepatici e quindi la mamma ci mette il caschetto e non possiamo scambiarci le onde cerebrali. C'è sempre una nostalgia del passato, ma in questo caso bisogna capire e definire qual è la giusta collocazione a dare a questi strumenti, perché demonizzarli e toglierli non serve a niente, ne saranno comunque contaminati. Ci sarà sempre un amico che gli presta il cellulare per guardare il proprio profilo di Facebook, come era per il motorino. Non ti compro il motorino, e poi si schiantava seduto sul sellino posteriore del motorino dell'amico. Io vorrei definirla in maniera un pochino più corretta. E per questo sento Maurizio Tucci. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Presidente, Laboratorio Adolescenza, associazione che svolge diversi progetti di ricerca sull'adolescenza, anche in rapporto appunto alla socialità, al web, alle nuove tecnologie. Vediamo di capire un po'. È paragonabile, diciamo, il vulnus, la privazione, e non voglio giustificare, lo ridico se ci fosse necessità, per questa ragazza, per un adolescente in generale, del cellulare, del palmare, della connessione internet, a quello che in altri tempi poteva essere la libertà: ti chiudo in camera, ti tolgo il motorino, te ne stai a pane e acqua, non lo so. C'è qualcosa di corrispondente o è molto di più? No, è molto di più, perché al di là del chiudere in camera a chiave, che veramente qualunque sia stata l'epoca erano provvedimenti, diciamo, al limite del codice penale, anche se esercitati. Però si faceva, diciamo che fino agli anni 60 sono stato anch'io chiuso in camera, era normale. Comunque è molto di più, perché oggi togliere il cellulare è come se in passato si fosse sommato una serie, si fossero sommate una serie di privazioni, tipo ti chiudo in camera, non puoi parlare con nessuno, stai al buio per 3 giorni, perché oggi la connessione, la possibilità di essere in rete con gli altri è diventata, lo diceva lei prima, io sono sostanzialmente d'accordo, una parte fondamentale, una componente fondamentale del tipo di vita degli adolescenti, ma anche su questo sono d'accordo con lei, anche degli adulti, perché che ce ne si accorga o meno, che ce ne rendiamo conto o meno, anche noi stiamo mutando e stiamo considerando la connessione come qualcosa di essenziale per la nostra vita. Diciamo che comunque, onestamente, è qualcosa di sempre più importante. Io stesso mi sento a disagio se mi finisce la carica del mio smartphone, ma per tanti non voglio fare il pulito, dice, solo per le questioni di lavoro. Io ci lavoro, il mio lavoro si svolge l'80% su uno smartphone o su un computer, ma mi sento anche fuori dal mondo, mi manca il contatto con il resto del mondo, mi piace vedere, capire, ricevere sollecitazioni e dare sollecitazioni. Per noi ormai è una cosa molto importante questa, non è soltanto un vizio della modernità, secondo me. Assolutamente, io sono d'accordo. Tenga presente, le faccio un caso proprio in diretta. Io sono stato raggiunto da voi, sono in Francia, attraverso lo smartphone sono riuscito a raccogliere tutte le informazioni del caso di cui si parlava e che ha scaturito molto probabilmente il vostro programma, e non l'avrei mai potuto fare senza questi strumenti. Quindi io sono assolutamente d'accordo, e non va nemmeno fatta la divisione, perché noi adulti lo utilizziamo per lavoro e i ragazzi per... Ma no, lo usiamo anche per fare le nostre marachelle, per le nostre sconcezze, per i nostri piaceri, tutti, da 0 a 90 anni, non ci prendiamo in giro. Sennò... Assolutamente. Oggi gli avvocati matrimonialisti mi dicono che il 99% degli adulteri si consuma, inizia su un social network. Non pensiamo che mamma e papà lo usino soltanto per fare i bravi ragazzi, sennò ci prendiamo in giro. No, certo. Per cui su questo, sulla punizione con la privazione dello smartphone, a parte che è anche vero che poi possono utilizzare quello degli amici, quindi sono punizioni alla fine inefficaci, ma che presentano e hanno un effetto di frustrazione nei confronti dei ragazzi che è pesantissimo, è gravissimo e non ha nessun tipo di salutarità, diciamo. Allora, Maurizio Tucci, mi devo fermare soltanto un istante per dare la linea alle consuete interruzioni, però mi sembra che la prima parte del messaggio che mi dice lei da esperto non è questo il terreno in cui si possano applicare, non è consigliabile applicare le sanzioni necessarie in un rapporto comunque di autorevolezza giustificata di un genitore. Se in qualche maniera dovete togliere qualcosa a un figlio perché capisca che si deve comportare diversamente, forse non è proprio questo il terreno su cui agire, perché si deve agire, poi mi dirà dopo l'interruzione se ho interpretato bene il suo pensiero, su una sfera così profonda ormai, così essenziale, come dirgli non ti do più da mangiare e da bere, che è una cosa aberrante. A tra un istante. I centri ottici Green Vision ti aspettano per il controllo gratuito della tua efficienza visiva. Greenvision.it vi presenta. Melog. Cronache Meridiane. WhatsApp è il social in ascesa vertiginosa nei gusti degli adolescenti in Italia. Nel 2015 lo usa il 59% dei ragazzi tra i 12 e i 17 anni, con un aumento del 39% dal 2013. Diminuisce invece, anche se resta sempre solida, la presenza dei ragazzini su Facebook con il 75%, meno di uno su tre invece usa Twitter. Una ricerca di Ipsos 800024 0024, stiamo entrando più nello specifico per capire esattamente cosa possa succedere nella mente di un adolescente privato dei propri strumenti di relazione, che sono lo smartphone, il PC di casa, tutto ciò che lo mette in relazione con il resto del mondo. Ripeto, se ci fosse ancora bisogno, il mio non vuole essere un programma assolutorio di una ragazza che spara in testa alla madre e la uccide, ma vorrei dare degli strumenti maggiori per capire quali possono essere i terreni in cui un genitore può muoversi anche con delle lecite e giuste sanzioni per dare al proprio figlio degli esempi di comportamento o fargli capire che il comportamento non è giusto. Un figlio che sta 10 ore al giorno attaccato a uno smartphone e non studia e ha dei pessimi risultati a scuola, due sono le situazioni: o a scuola è totalmente disincentivato a seguire, si trova davanti a una scuola che considera a sua volta questi strumenti di relazione come oggetti diabolici e lo costringe a entrare in contatto con sistemi per lui ormai antiquati, inesistenti, studia il libro, leggi da pagina tale a pagina tale, butta via quel telefonino, spegni quello smartphone, e quindi il ragazzo pensa ancora una volta che l'unica ancora di salvezza per vivere la propria adolescenza sia quella di fuggire da un mondo degli adulti, grigio, limitato, monoculturale, e quindi espandersi tranquillamente attraverso i suoi strumenti di libertà. È qualcosa che assomiglia molto però all'abuso di una droga. Ci ritroviamo nuovamente a parlare di situazioni legate comunque all'uscita dal mondo lecita e connessa o interdetta dagli adulti. Vincenzo Mastronardi, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno agli ospedali. Psichiatra e criminologo, ricordo, titolare della cattedra di psicopatologia forense presso la prima facoltà di medicina, Università di Roma Sapienza. Vorrei capire esattamente con lei. Lei sarà trovato a gestire un'infinità di casi di omicidi in famiglia in cui adolescenti ammazzano i genitori. Quanto comincia a essere prevalente o significativa per lei questa nuova motivazione, che non è l'eredità, non è il rapporto non risolto, non è il genitore vessatorio, è il genitore che ti impedisce di vivere il tuo mondo relazionale levandoti il telefonino? Allora, ci abbiamo tre considerazioni che è indispensabile fare innanzitutto, ovvero sia, primo, che per fortuna non è d'ordinaria amministrazione, se no saremmo giunti all'estinzione già di tutta la razza umana già da diversi anni or sono. Seconda cosa, quindi, ci sono dei segni spia che i genitori dovrebbero stare attenti a ricercare, ovvero sia un disturbo ossessivo di personalità che non ha a che fare con la necessità assoluta di soddisfare quel momento di richiesta di continuazione su internet o con il cellulare. Pertanto, a questo punto, nel momento in cui si ha a che fare con una ragazzina, con un ragazzino che palesemente o lo si è fatto già sottoporre a visita specialistiche, oppure si vede, si nota che ha un disturbo ossessivo di personalità, quello caratterizzato appunto dalla necessità di continuare e portare al termine le piccole grandi cose, beh, e allora lì è pericoloso. Comunque un momentino, e serve un attimo il metodo del bastone e della carota, perché comunque non possiamo prescindere dalla necessità di dare un esempio. Beh, qualcosa deve avere in mano il genitore per far capire che deve togliergli, se no si dà tutto sempre, sarà tutto dato per scontato. Gli può togliere la paghetta, gli può togliere il vestito nuovo, gli può togliere, non lo so, qualcosa che a lui faccia piacere. Si fa così di solito. Un messaggio ai genitori: non temete, perché non vi fate intimorire da questi casi sporadici. Voglio dire, abbiamo per esempio il caso di Erika e Omar, allora a suo tempo, dove c'era un divieto che veniva fatto, lì c'era anche un patto di droga, allora a suo tempo naturalmente che aveva un po' alterato. Lei la seguì, professore, allora a suo tempo, Erika e Omar? Cioè... Non personalmente, però ho seguito l'iter, ho seguito la perizia, ho la perizia in mano e quindi mi sono reso conto, proprio per ragioni di ricerca e di studio, quanto, ecco, vi era lì, anche lì, un disturbo di personalità. E nello stesso tempo, quindi, la necessità di soddisfare ad ogni costo i propri bisogni adolescenziali, infantili che siano, comunque, che portava poi dopo a togliere di mezzo, quindi disturba anche dirlo, e ricordarlo, a togliere di mezzo qualunque ostacolo potesse interporsi fra la ragazza, allora a suo tempo Erika, più che bambina, e a questo punto è la madre che gli impediva comunque. Uccisa coltellata e poi lo fuggì nella vasca a bagno il fratellino, cioè fece una cosa terribile, un macello. Terribile. Quindi non temiamo, la necessità è quella di individuare comunque dei segni spia. I segni spia sono appunto i disturbi ossessivi di personalità, che non ha nulla a che fare con la necessità di comunque andare sempre in internet. Questo è un meccanismo di appetizione che tutti i ragazzi hanno, che non solo i ragazzi hanno, ma anche gli adulti, vedo in certi contesti, che si attaccano al cellulare come se fosse una nuova forma di amore cellulare, a questo punto possiamo andare a definirlo così, che contraddistingue. Però bisogna aver capito, professor Mastronardi, esiste un comportamento diffuso, collettivo, ormai inveterato negli usi quotidiani, e dei comportamenti che in realtà sfiorano in un aspetto patologico. Bisogna fare un po' la differenza, non è che tutti, esatto, i ragazzi che hanno un cellulare sono dei potenziali assassini, o tutti, bravo, i genitori, esatto, non possono agire in questo campo. Bisogna stare attenti. Evitare il terrorismo appunto psicologico e sociale. No, ma questo non è solamente il nostro scopo, però ci piace dare degli elementi di riflessione ulteriore, visto che abbiamo possibilità di chiamare persone illuminate e competenti in questo campo. Grazie, professor Mastronardi. Stefania, buongiorno. No. Allora io vorrei agganciarmi a quanto da lei appena detto. In merito all'autorevolezza genitoriale, secondo me questa non si esprime con la negazione, barattando o negoziando. Quindi parliamo di prevenzione, diciamo, non arrivando ai casi limiti, perché allora, secondo me, appunto, bisogna depistare il ragazzo, l'adolescente, con interessarlo a qualcos'altro. Per cui il ragazzo, secondo me, in maniera molto più semplice e più pragmatica, si attacca a questi social network perché non sa che fare, perché non è impegnato, perché la scuola non è considerato un impegno, ok? Ma è considerato qualcosa da fare nei ritagli. Allora, se noi lo interessiamo a qualcos'altro, cioè può essere anche in maniera molto pratica a delle cose di casa, ma può essere anche fare un dolce, per capirci, se è un ragazzo o una ragazzina piccolina, oppure a qualcosa di dei lavori, delle, o anche uno sport, o iniziare un'altra cosa insieme, un altro sport con la mamma, col papà. Diciamo, ci sono dei territori di negoziazione capire, che vanno percorsi un po' prima di arrivare al muro contro muro. Bisogna prevedere, prevenire. E quindi io credo che se tu gli dai dell'altro, qualcosa che lo interessa, quindi ogni madre sa il carattere del proprio figlio. È più complesso di tolgo e levo meno. Poi c'è anche a dire un altro episodio. Abbiamo tanto parlato di armi questi giorni. Se non ci fossero armi da fuoco in casa, in questo caso era lo strumento di lavoro del padre, però certo. È che facilita comunque l'idea che qualcuno possa usarla. Nicola, sì, buongiorno. Nicola. Buongiorno, vi chiamo da Torino. Vorrei prima di tutto presentarmi, sono un ex educatore in un orfanotrofio in Romania, ho avuto casi vari, ho dovuto gestire bambini da 15-16 mesi fino a 14-15 anni, adesso sono papà di due figli e vorrei in qualche modo sviluppare quella che ha detto la signora prima di me, che l'insieme è molto importante. Non so quanti genitori dicono ai loro figli facciamo una squadra. E un altro aspetto, se io tolgo la bici al mio figlio, ma io lo uso, a cosa vado, diciamo, incontro poi? Sì, poi c'è anche, c'è anche questo, togli una cosa al figlio che usi anche te in questo caso. Sì, sì, se io uso lo smartphone e il figlio mi vede che mentre cucino, mentre mangiamo, mentre... No, questo è acuto, sai che non ci avevo mai pensato. In effetti, oggi non è più un gioco che ha in mano il figlio, non è la PlayStation, non è il motorino, è un oggetto che ce l'hanno tutti in famiglia, ce l'hanno anche le nonne. Oggi in Italia ne abbiamo due e mezzo a testa, mi pare, quindi non esiste famiglia che non ci sia una madre senza smartphone, in qualunque classe sociale, in qualunque livello economico. Quindi togli alla figlia, fra virgolette, un divertimento che la madre continua a usare. Importante questo. Deborah, buongiorno. Sì. Deborah. Buongiorno. Sì. Deborah. Salve, io ho chiamato perché sere fa ho invitato, o meglio i miei figli invitano ormai i loro amici a cena, e i miei figli hanno 17 e l'altra 14. Mentre stavamo mangiando a tavola, uno di questi ha tirato fuori lo smartphone per controllare la sua posta. Vabbè. Lo fanno anche i miei colleghi e le mie colleghe quando andiamo a pranzo assieme, e hanno 45 anni. Sì, vabbè, però il mio questo in questo caso 17 alle 9 di sera, e ho detto, dico, per gentilezza, dico, mentre sei a tavola con me e con i miei figli mi farebbe piacere che tu non usassi il tuo telefono. Cioè, ma io a casa lo faccio sempre. E io di tutto punto ho risposto, a casa mia no, perché i miei figli a tavola, come vedi, non lo utilizzano. E lui si è alzato, mi ha ringraziato, quindi non ha finito di cenare, mi ha detto, dice, io me ne vado perché io voglio utilizzare il telefono. Posso dire una cosa, signora, però, signora, guardi, non voglio però è un po' brutale dirlo, a casa mia fai quello che vuoi, onestamente, molto antipatico, devo dire la sincera, sono proprio sincero, può essere fastidioso, ma è molto antipatico dire al ragazzo, a casa mia non lo usi. Anche io mi sarei alzato e me ne sei andato, dico la sincera verità, se non me l'avesse detto, avrei detto, signora, Gianluca, benissimo, me ne vado, sono ospite, guardo il telefono, lo fanno tutti, vado in qualsiasi ristorante, se sono coppie, ognuno c'ha il telefono in mano, anzi, hanno studiato questa cosa, l'hanno studiata, hanno capito che oggi nelle relazioni bisogna cominciarsi a rendere conto che non è più un gesto così lesivo della dignità di chi ci sta accanto. Oggi la relazione telematica ha lo stesso valore della reazione carnale, quindi la persona che abbiamo avanti, visto che siamo multitask, ha lo stesso peso di quella che abbiamo a distanza, e quindi tutti meritano attenzione. In questo so che sono contrario, pensi, dietro il vetro della regia in tonti mi sta dicendo no, questa cosa è impossibile, ma l'educazione, io comincio a essere assolutorio nei confronti di una, anche se uscissi con Miss Universo e la vedessi digitare sul telefonino, mi farei una ragione anche di questo, ma me lo faccio anche con gli amici, perché lo faccio anch'io. Ci sono dei momenti in cui è molto importante avere un punto di contatto con altre persone, non sono quella che c'è davanti. Come le pensiamo e come le immaginiamo, possiamo anche averci contatto perché siamo multitask. Maurizio Tucci, come la pensa? Presidente Laboratorio Adolescenza, associazione che svolge diversi progetti di ricerca sull'adolescenza. Una battuta, poi dopo la richiamiamo e continuiamo con lei. Sì, io su questo considero che tutto sommato l'attenzione non deve essere rivolta a quanto e quando usano il cellulare e i social network, ma alle conseguenze che a volte possono avere da questi social network. Lei prima parlava di autostima, i social network aiutano anche a consolidare l'autostima. Certo, è un procuratore di endorfine eccezionale, come anche di frustrazioni, naturalmente. Esatto, però è questo che dicevo, le frustrazioni sono dietro l'angolo, perché bastano 10 mi piace, 10 I like per gasare l'adolescente, però bastano pochissimi commenti critici per metterlo in uno stato di frustrazione a volte anche grave. Ecco, bisognerebbe riuscire a dare un po' dei freni da un lato e dall'altro, proprio per prendere le cose con il giusto metro, non lasciarsi, non essere troppo condizionati e condizionabili dalla popolarità o meno attraverso i social network. Ci fermiamo un istante, riprendo con lei fra un istante, se no devo interromperla. Va un attimo l'interruzione, poi abbiamo tutto il tempo per concludere in tutta calma con lei. Prego, tra poco. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Melog, cronache meridiane. l'avessi mai fatto. Nicoletti, sei patetico, maleducato. Solo i maleducati usano il telefono a tavola. È maleducato anche non rispetta le regole altrui. Ha ragione la signora, ma una signora invita gli amici del figlio e poi gli dice: a casa mia non si fa. Ma anch'io me ne sarei andato, figuriamoci, sicuramente. È come avessero detto 30 anni fa: giovanotto, lei non ha la cravatta, a casa mia senza cravatta non ci siede a tavola. È chiaro, uno s'alza e se ne va. Cioè, allora impiccatici con la cravatta, che devo dirti. E poi anche sul fatto del multitasking: guai se una persona usa lo smartphone mentre sta con me, lo caccio, è cafonissimo. Allora io dico, esistono delle scale di valori, bisogna conquistarsi l'attenzione di una persona. Se una persona non è così affascinata e presa da quello che dico o interessata da quello che dico che butta lo sguardo sullo smartphone, è colpa mia, c'è qualcun altro che in quel momento lo interessa più. È giusto che non finga, è giusto che mi renda conto nella sua scala di valori quanto valgo, è giusto che mi contrapponga con i suoi 100.000 contatti su WhatsApp, e se lei preferisce quelli in quel momento vuol dire che io ho qualcosa in meno. Questo farà scandalizzare tutti, ma vi assicuro e vi profetizzo, e di solito le mie profezie riescono in parte ad autoavverarsi, dico che avverrà un momento in cui sarà normalissimo avere dei contatti multipli, come noi chattiamo con 3 persone assieme o noi mandiamo messaggi a altre 4 persone. Io mentre sto conducendo questa trasmissione, ne sono testimoni le persone al di là del vetro, sto scrivendo via WhatsApp con una persona su quello che farò dopo dalle 13 in poi, sto prendendo accordi e lo sto facendo. Ve ne siete accorti? Vi è mancato qualcosa dell'attenzione? Nemmeno la persona che si sta scrivendo con me in questo momento sa che io sto conducendo una trasmissione su un omicidio in famiglia, e tranquillamente parliamo di tutt'altro argomento. Non dobbiamo abituarci che rispetto agli uomini di qualche decina di anni fa ci siamo evoluti anche nelle nostre capacità comportamentali. Rowina, buongiorno. Salve, buongiorno. Rowina, buongiorno. Rovina si dice? Rovina, con perché la doppia. Rovina suona male. Infatti, però qualcuno la chiama Rovina, però. Qualcuno la chiama sì, Rovina. Sì, sì, tanti. A Rovina. No, spero che sbaglio. Allora dica la sua Rovina. Volevo dire che noi diciamo che queste cose non ci piacciono per i nostri figli, però la scuola delle mie figlie. Adesso mi dice in tonti che hanno infame. Adesso non lo usi lo smartphone perché parli con Rowina. Sì, perché mi interessa Rowina più di quanto mi interessava prima Pinca Pallina. Ci sarà una gerarchia fra gli esseri umani, fra quelli interessanti più o meno. In questo momento ho appoggiato il telefono. Prego Rowina, continui. Sì, prego. No, volevo dire che le mie figlie usano tanto l'iPad, cioè il tablet a scuola. E loro stesso dicono durante la lezione gli amici, invece di studiare, guardare, usarlo per i mezzi, cioè di insegnamento, loro ci giocano. Ma io a casa il problema è che mia figlia sta studiando con col tablet davanti. Io devo andare sempre a vedere, ma stai studiando, cosa stai guardando? Ma questi ragazzi fanno i compiti con la televisione, con il tablet, col telefonino. Io finché prendono dei vuoti e voti è difficile criticarli, e quando si va oltre ovviamente diventa problematico. Finché il profitto scolastico funziona, facciano quello che vogliono, non è sì. un problema. Sì. Quando smette di funzionare sarà un po' un problema. Già va la sigla, è finita la trasmissione. Grazie, buongiorno. Beh, mi dispiace, non faccio più in tempo a far partecipare Maurizio Tucci. Riprenderò con lui la trasmissione quanto prima con l'argomento dell'adolescenza e i mezzi di comunicazione diffusi e diffusivi. A domani, anzi, no, anzi, a lunedì. Avete fatto. Mannaggia.